dolce lacere visive me. Passero monti e fiumi, e quanto mi diparte del bramato sereno e tuoi bei lumi. Ma chissà se costante mia ti trovo.